音精华，声系天下。北京人民广播电台公益广告。 我是消防车，守卫着这座城市。 出发！ 很多人说我有红色的铠甲，坚定的信念和无坚不摧的体魄。可是，每当看到人们因为不小心的疏忽造成难以挽回的损失，我的心…… 提高消防意识，远离火患，幸福平安。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有线调频98.6兆赫，欢迎收听。 在音乐的海洋中畅游，在旋律的小路上漫步。北京音乐广播古典音乐频道，有线调频98.6兆赫 ，Pops 音乐，让您轻松享受生活。每天5点、17点播出。 欢迎收听 Pops 音乐，我是古月。今天首先请欣赏一组轻松优雅的古典吉他音乐小品，曲目有《爱的浪漫曲》、《魔笛主题变奏》、《华丽的恋曲曲》、《茶花女主题变奏曲》等。下面请连续欣赏。 Thank you.

Thank you.

北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。小路上漫步，北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫 Pops 音乐，让您轻松享受生活，每天5点17点播出。 欢迎继续收听 Pops 音乐，接下来和你分享意大利男高音歌唱家帕瓦罗蒂演唱的《拿波里民歌》，曲目有《我的太阳》《重归苏联托》等，下面请连续欣赏。 Thank you. celle, aiuta di là, va su mare l'ariello, devo sempre abbracciare. Thank you.

giardino, la senti si è si sciurrarange, lo profumo a così fino, tinto cuore fedela. E tu dici, o parta Dio, perché non è tuo. torne a me. Oh, sempre parole d'amore. Come calma montagna stanotte. Oi, Maria! cosa più dispiette farne non può. Quando lo fuoco goce ma si guglie e lascia stare. E non te copri a priesse non destruie su a guardà. Iando, iando, coppa iamma ya. Iando, iando, coppa iamma ya. Cure, cure, cure, cura, cure, cure, cure, cura. Iamma iamma ya. Cure, cure, cure, cura. Adesso aiuta la capa già. E chiuta poi è tornata e poi è venuta sta sempre qua. La capa vuota vuota attorno attorno attorno a te. Lo cuore canta sempre del tuorno scusa mai è. 今天的 Pops 音乐就到这里，感谢您的收听，欢迎继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 bella。Si tu tieni una bucella, no poco poco rille, appasso Oh, my God. Oh,